In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia. Esplora l'universo Aruba Cloud. Fanno il mio lavoro, sanno quanto sia bello, importante, gratificante, piacevole avere delle persone che ti seguono, che vedono un concerto, un altro, riconoscere dei volti, sapere che ci sono ragazzi e ragazze che prendono le ferie apposta per modellarle attorno al tour che fai. Tutte queste persone, che insomma io definisco amici, in realtà hanno una parola già codificata, che è fan. E la parola fan in realtà ha un risvolto sul quale fare attenzione, perché deriva da fanatismo, e il fanatismo a volte spinge a gesti folli, inspiegabili. Il proprio idolo è qualcosa che può essere innalzato ma anche annientato. Per esempio, è un caso classico, è quando hai poco successo e poi dopo hai successo, che molti cominciano a dirti non è più quello di prima, quasi come se ti dispiacesse che il tuo beniamino comincia a piacere a troppe persone. Poi naturalmente ci sono le manifestazioni patologiche, cioè quelli che in qualche modo hanno un rapporto tormentato con il loro idolo. Anche lì mi cito, io nel 78 ho scritto una canzone che si chiamava Superstar, dove c'è un fan che uccide l'artista amato, e in realtà l'ho scritta 2 anni prima di quando Mark Chapman, con in mano una copia del Giovane Holden, va sotto casa di John Lennon e lo uccide. Ne abbiamo fatto una puntata. Nel mondo del rock, del metal, sono tanti i casi di personaggi che aggrediscono i loro miti, forse perché in qualche modo il rock e il metal sono più, eccitano di più insomma le anime. I più appassionati di metal sicuramente ricordano i Pantera, band che ha fatto la storia di questo genere, stereotipi perfettamente rispettati, chitarre, metal pesante, voce ringhiosa, e anche loro hanno vissuto la follia di un fan che si è accanito sul loro fondatore, uno dei chitarristi più amati. Non è un caso, suonava veramente bene, insomma era un fuori classe. Stiamo parlando di Dimebag Darrell, e dedichiamo a lui la puntata di oggi. È la sera dell'8 dicembre 2004, Dimebag Darrell e il suo gruppo stanno suonando sul palco al Rose Villa nell'Ohio. È un tour promozionale e la serata però prende una piega inaspettata. Un rumore di spari interrompe il concerto e lascia una ferita ancora oggi aperta nel mondo della musica metal, perché il protagonista di quella sera e anche della nostra storia è uno dei chitarristi, lo abbiamo detto, un guitar hero. Fermiamoci un attimo su questi spari, congeliamoli e torniamo indietro. Dobbiamo raccontare di chi stiamo parlando. La storia di Darrell Lance Abbott, che è il suo vero nome, inizia su un altro palco. Inizia nell'81, siamo all'Agora Ballroom di Cleveland, c'è un concorso chitarristico dell'Arnold e Morgan e c'è un ragazzino quindicenne che si presenta, ha una chitarra più grande di lui quasi, è così giovane, deve essere accompagnato dalla madre per partecipare a questo concorso. Quando inizia a suonare però si rendono conto tutti di essere di fronte a un prodigio, insomma lui sbaraglia la concorrenza, vince. Il premio del concorso è una Dean ML, un ottimo strumento. Darrell vorrebbe rivenderla per $500 a un liutaio che conosce, si chiama Buddy Blaze. Questo Buddy Blaze invece di comprarla gliela personalizza, gliela rivernicia di blu con fulmini e saette, insomma gliela customizza, come si dice in termine tecnico. Diventa così la chitarra con cui lui aprirà la sua carriera, carriera che parte con una serie di cover, come tutti si parte dalle cover, e lui ama suonare soprattutto i Kiss, i Metallica, i Black Sabbath. E probabilmente per il pubblico è strano vedere un ragazzino di 15 anni che vince contro dei ragazzi più adulti, però Darrell non è un adolescente qualsiasi, lui è cresciuto respirando musica grazie al padre che è uno dei più importanti produttori musicali del Texas. E lui divide la sua infanzia tra le strade di Arlington, che è vicino a Dallas, e uno studio di registrazione di proprietà della Pantigo Records. Lì lui, assieme al fratello maggiore Vincent, trascorre il suo tempo, insomma, assisterà alle sessioni di prova dei musicisti. E con questo fratello, con Vincent, Darrell ha un legame molto forte, sfiora l'adorazione. Proprio con lui, durante gli anni dell'adolescenza, fonda un gruppo che cambierà le loro vite e anche, insomma, segnerà un capitolo molto interessante nella storia del metal, e il gruppo è già quello dei Pantera. E la band ha subito un discreto successo a livello locale, quantomeno suona in molti club del Texas, e il loro repertorio è composto dai successi hard rock delle band più affermate del momento. Uno dei loro gruppi preferiti è quello dei Van Halen, anche perché anche i Van Halen, e soprattutto, insomma, hanno un chitarriero notevole di Van Halen che Darrell ovviamente adora. Prima di ogni concerto i due fratelli scaramanticamente, si racconta, invochino il suo nome, Van Halen. Erano entrambi dotati di un talento naturale, ma Darrell sembrava avere un accesso più diretto a questo dono genetico. Suonavano strumenti diversi, ma questo servì solo a raggiungere l'obiettivo comune: essere i Van Halen. In altre parole, erano esattamente uguali e completamente diversi. E questo era un brano tratto dalla biografia di Zach Crane intitolata Dimebag, edita da Tsunami Edizioni. Nei sobborghi di Arlington, peraltro, nel frattempo Darren trova la compagna della sua vita lì nel mezzo della pianura texana. Si incontrano fin da quando erano bambini, girellando, girovagando per il quartiere. Lui è questo ragazzino che ascolta rock, lei lo spinge giù da una bicicletta per farsi notare. E insomma, con lei, che si chiama Rita Haney, lui condivide peraltro il primo vero concerto della sua vita. È il 79, i due vanno assieme a ascoltare i Kiss, un altro gruppo, insomma, grandi padri del rock, dell'hard, chiamatelo come volete. I Kiss hanno influenzato Darrell per tutto il corso della sua carriera, se li ha addirittura tatuati addosso. Nel 1983 Darrell ha solo 17 anni e già il suo primo disco, il disco dei Pantera, l'album si chiamerà Metal Magic, è prodotto dall'etichetta fondata appositamente dal padre Jerry Abbott, che nei primi anni peraltro si occupa anche del management della band. E i primi album naturalmente sono ancora la loro personalità in costruzione, il sound è diverso dai lavori più maturi che arriveranno. Questo album in particolare si rifà al glam, diciamo al post glam, non era certo quello raffinato di Bowie e dei Roxy Music, però comincia a nascere questo movimento, diciamo, estetico, con gli artisti che hanno i capelli cotonati, trucco eccessivo. Poi arriveranno i Bellocci, i Motley Crue, gli Skid Row, no? Tutti questi gruppi che facevano dell'immagine, insomma, una cosa fondamentale, quasi femminilizzando determinate caratteristiche in realtà per mascolinizzarle. C'è all'interno di questa iconografia invece uno con un barbone, si chiama Vinnie Paul, è sempre Vincent in realtà, è il fratello di Darrell. Questo è un mondo in cui tutti hanno un soprannome, un nome d'arte. Il bassista Rex Brown per esempio diventa Rex Rocker, Darrell sceglie di chiamarsi Diamond, come succede spesso, però poi gli viene appioppato un altro soprannome che è Dimebag. Con questo nome lo conoscono tutti ancora oggi, Dimebag, che nello slang americano è la bustina da $10 di marijuana, era il suo regime giornaliero, insomma, per mantenere flessibile la mente, almeno così lui sosteneva, come sosterrebbe anche il drugo del grande Lebowski. Non è una novità peraltro associare il mondo del rock alle dipendenze, e la debolezza di Darrell in realtà non è certo la marijuana, ma è qualcosa di molto più pericoloso, cioè l'alcol. Bevevano, ma quello non era proprio scandaloso. A parte la vista di un Daryl quindicenne a cui venivano serviti dei beer bong. Per fare un beer bong bisognava attaccare un tubo a un imbuto. Nell'imbuto si versa quindi un litro di birra e all'estremità libera del tubo il fortunato o malcapitato beve alla goccia tutta la birra versata nell'imbuto. La band trascorre 5 anni, diciamo, in un limbo, la gavetta, riscuote un discreto successo a livello locale, serve qualcosa di più per la svolta, qualcuno in più forse. Nell'87, su indicazione di Darrell, i Pantera decidono di sostituire il cantante. I due fratelli scelgono un ragazzo di New Orleans, si chiama Phil Anselmo, voce grintosa, molto personale, insomma, tutto questo porta il gruppo a un cambiamento di stile. Si sposta su sonorità più aggressive, power metal è l'album di passaggio, e già power metal è, come dire, una dichiarazione di intenti. E poi arriva il lavoro che li consacra al grande pubblico, Cowboys from Hell. 24 luglio 1990 è il giorno di uscita di Cowboys from Hell, è un giorno che cambia da subito il destino dei Pantera. Grande successo, diventerà addirittura disco di platino, e grazie a questo risultato i Pantera hanno finalmente l'occasione di fare un tour al di fuori degli Stati Uniti. Accompagnano un gruppo leggendario, i Judas Priest di Bob Halford, in Europa, e l'anno successivo approdano al Monsters of Rock, che è, come dire, uno dei grandi coronamenti nel settore. Quell'anno in scaletta ci sono gli AC/DC, Motley Crue, Metallica. Qua si comincia a giocare con i grandi, i Pantera sono entrati in Serie A. E c'è un cambiamento nelle sonorità del gruppo, forse è proprio questo la ricetta vincente, con la voce che si incattivisce, arriva il doppio pedale alla batteria, la chitarra comincia a essere accordata su tonalità più basse, le corde più morbide creano, insomma, un suono completamente diverso, un po' più inquietante, più tetro. E poi, insomma, per chi non avesse voglia di addentrarsi in questioni tecniche, basterebbe buttare un occhio alle foto per notare come alla svolta musicale si affianchi anche un chiaro cambio di look. Basta quei capelli cotonati e le paillette alla Bon Jovi, i Pantera passano ai jeans strappati, alle barbe lunghe, il pantalone più corto magari sotto al ginocchio. Anche nei concerti c'è un nuovo approccio, lo diceva anche Phil Anselmo. Loro volevano terrorizzare il pubblico, e i nuovi pezzi vengono suonati su un palco accecante grazie all'uso di luci molto forti, le luci uguali a quelle delle piste di atterraggio degli aeroporti. Insomma, le esibizioni dal vivo dei Pantera diventano uno spettacolo unico anche a livello scenico, lo sostiene anche il manager della band di allora, Webster, detto Pyro. Mentre ero nell'aeronautica, ero solito andare nell'accampamento dello squadrone della manutenzione a chiedere ai ragazzi di darmi qualche luce e cose che loro usavano per il B-52. Presi alcune di queste luci da 28 volt e li assemblai per il voltaggio casalingo, ma erano comunque luci per l'atterraggio dei B-52, quindi puoi immaginare quanto fossero forti. Beh, la storia della musica è piena anche di fuochi di paglia, di artisti che spariscono dopo aver azzeccato un album, in Italia ne sappiamo qualcosa, insomma, oppure artisti, e anche questo lo sappiamo benissimo in Italia, che passano la vita a ripetere se stessi all'infinito. Beh, non è il caso dei Pantera, perché dal 90 e in poi c'è per loro un'ascesa continua e uno stile che si evolve maturando ogni disco. Il secondo lavoro di questa nuova fase si chiama Vulgar Display of Power, titolo che peraltro viene da una frase detta dalla bambina posseduta dell'esorcista. Disco che regala dei pezzi tra i più conosciuti dal grande pubblico, come Walk, come This Love, e poi arrivano gli album seguenti che confermano il crescente successo, diventano un'icona, le magliette dei Pantera, insomma, non sono cose qualsiasi. Se tu vedi in giro uno con la maglietta dei Pantera, capisci a che club di vita appartiene. I loro concerti si aprono sempre con la frase di Cowboys from Hell, la loro canzone più famosa, We are taking over this town, ci prenderemo questa città. We realtà è sempre difficile tracciare una linea di demarcazione tra il pubblico e il privato. Ci sono artisti che anche nel privato in qualche modo si fanno condizionare dalla loro immagine pubblica. Quindi immaginiamo questi ragazzotti texani, magari anche fomentati da una certa ideologia sudista, che sono impegnati in tour peraltro infiniti, 200 date in 2 anni, con la fatica fisica e mentale che si somma, diciamo, alla loro esplosività, cominciano a vedersi i primi segni di cedimento. Nel 94 Phil Anselmo viene arrestato per aver picchiato una guardia sulla testa con un microfono durante un live. In un altro ambiente sarebbe, insomma, un episodio da stigmatizzare. Nel mondo del metal è un peccato veniale. Peraltro, insomma, l'animo dei quattro Pantera comincia a andare verso fasi di vita estreme. Siamo alla distruzione e un po' anche all'autodistruzione. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Darrell Abbott, detto Dimebag Darrell, chitarrista, fondatore dei Pantera, uno dei gruppi metal più influenti della scena degli anni 90, musicista di talento incredibile, è diventato schiavo dei vizi che stanno portando lui e i suoi compagni vicini alla distruzione. Insomma, è la storia, ahimè, di centinaia di grandi band, vita passata a calcare palcoscenici. I Pantera che hanno scalato in fretta, oddio in fretta, hanno fatto un po' di gavetta, però insomma adesso sono in cima, però su di loro si stanno addensando delle nubi molto scure. È già in atto, diciamo, l'innesco che porta la band verso la crisi. I Pantera nel giro di pochi anni sono diventati una delle band metal più importanti a livello mondiale, con un pubblico fedelissimo, come capita nel metal, concerti che vengono seguiti da un numero sempre maggiore di fan. Questa carica di pressione si riversa soprattutto sul cantante Phil Anselmo. I live sono faticosi da reggere, perché ovviamente sono dei live molto movimentati. Il cantante prima di tutto canta a gola ben spiegata e poi insomma ci si muove, si salta, si corre. Arrivano problemi alla schiena per Anselmo, però insomma, come si suol dire, the show must go on. E così lui comincia prima a scolarsi intere bottiglie di whisky e poi passa direttamente all'eroina. Lo racconta lui stesso nel documentario Behind the Music. Causes isolation. A causa dell'isolamento cambia tutta la tua vita. E a quel punto i Pantera erano una cosa gigante. Insomma, avevo un lavoro da fare. Usavo farmaci o qualsiasi cosa che mi portasse su quel dannato palco e che non mi facesse sentire quel dolore. Bevevo un'intera bottiglia di whisky solo per andare avanti ed essere stordito, il che ovviamente influiva sulle mie performance e creava preoccupazioni all'interno della band. Putting some worry into the band, you know? E questo circolo vizioso continua e finisce in una stanza d'ospedale dove Phil Anselmo va in arresto cardiaco dopo un concerto a Dallas. Siamo nel luglio del 96, 5 minuti di arresto cardiaco quando lo rianimano. Un'infermiera si china su di lui e gli dice: bentornato alla vita, sei stato in overdose da eroina. Questo ovviamente crea grandi preoccupazioni negli altri membri del gruppo, soprattutto in Dimebag. La dipendenza di Anselmo dall'eroina peraltro non è neanche l'unico problema. Pochi mesi prima dello show di Dallas del quale parlavamo, i Pantera stanno per registrare il loro 8° album in studio, The Great Southern Tranquil. Il gruppo ha prenotato da settimane una sala. All'ultimo momento Darrell rinuncia all'idea perché preferisce registrare le tracce in casa, così dice lui, poteva suonare anche dalla tazza del cesso, lo dice proprio in un'intervista. Tutto bene, non direi, insomma, perché Phil non è con loro, sta registrando in un altro studio da solo. Dimebag e gli altri sanno della tossicodipendenza avanzata di Phil, lui si vergogna, non vuole farsi vedere in quelle condizioni. La situazione ovviamente si ripercuote sulla qualità musicale dell'album, che peraltro risulta anche un mezzo flop a livello di vendite. Il disco che rimedierà questa situazione uscirà un po' di anni dopo, 4 anni dopo, si chiama Reinventing the Steel, riporterà entusiasmo attorno ai Pantera, anche se nasce da una produzione travagliata, perché quei 4 anni non hanno cambiato le dinamiche. Tutti litigano con Anselmo, che è distante, che è impegnato in altri progetti, vittima delle sue dipendenze, insomma una storia che ricorda un po' quella dei Black Sabbath. E poi arriva una tragedia familiare. Caroline Abbott, madre di Dimebag e Vinny, muore per un cancro fulminante ai polmoni. È un duro colpo per i due fratelli. Con la madre Dimebag aveva un rapporto uguale contrario, diciamo. È stata lei, ricordiamoci, accompagnarlo a quel primo famoso concorso per chitarristi. Beh, nel corso degli anni poi è lui che si prende cura della madre, che è affetta da ludopatia, cioè gioca e paga i numerosi debiti che la donna accumula. E tutto questo finisce nelle 6 settimane che passano tra la diagnosi di tumore e la morte della madre e i fratelli. Questo lutto i fratelli Abbott non riusciranno mai a superarlo. Era Caroline che prima di tutto gli aveva permesso di sognare. Aveva dato loro la libertà di scegliersi la propria strada. Quando il mondo li aveva portati lontano da lei, Caroline diventò un faro nella tempesta caotica della vita on the road, una presenza accogliente che le guidava verso casa. Caroline era una delle poche fonti di stabilità e conforto in una vita che era stata imprevedibile sin da quando erano adolescenti. L'album Reinventing the Steel rilancia la band. Tutto lascerebbe intuire che i Pantera sono pronti all'ennesimo grande salto. In realtà non sarà così. Partono per il tour europeo con tensioni, con malumori interni. Poi arriva l'11 settembre 2001, quando anche loro, come tutti, vedono in televisione le immagini degli aerei che si schiantano contro le Torri Gemelle. Loro sono in Irlanda, rimarranno lì bloccati per 2 settimane. Qui, diciamo, il loro cuore americano ferito decide che è ora di fermarsi, insomma interrompono il tour per non riprenderlo mai più. All'inizio sembra il pretesto per una pausa di riflessione. Il mondo del rock è pieno di persone che annunciano ritiri e poi non si ritirano mai, anche in Italia succede spesso. Stabiliscono un appuntamento per parlare tra loro di questo momento, dovrebbero vedersi a New York, però si presentano solo i fratelli Abbott, Dimebag e Vinny. Rex Brown e Phil Anselmo non si fanno neanche vedere, questa è la goccia che fa traboccare il vaso. Dimebag è stufo e decreta la fine dei Pantera, ognuno dei membri parte con altri progetti. Dimebag e Vinny fondano un nuovo gruppo, i Damage Plan, con il quale l'8 dicembre 2004 si preparano a salire sul palco, su quel palco da dove siamo partiti all'inizio della puntata. Il falco. Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. E il gabbiano. E ritorniamo sul palco della Rosa Villa e ritorniamo a quell'8 dicembre 2004. Nel backstage i due fratelli Dimebag e Vinny celebrano il loro rito, gridano Van Halen nel nome del loro idolo, insomma la loro scaramanzia. Il concerto inizia. Dopo pochi minuti Dimebag sta facendo uno dei suoi assoli indimenticabili. Sul palco sale un uomo, è armato di pistola, urla qualcosa di incomprensibile, spara, colpisce Dimebag alla testa, fa fuoco su un bodyguard e poi viene ucciso da una guardia di sicurezza del locale. I soccorsi sono inutili, Dimebag muore sul colpo. Nessuno conosce le reali motivazioni, il killer, un ex marine, si chiama Nathan Gale. La sua passione per i Pantera viene trasformata in follia, forse fomentato dal clima di odio, di tensione che si respira attorno a questa nuova band. È un clima che è diventato molto pesante, accuse reciproche, litigi pubblici. Phil Anselmo, tale è diciamo, la tensione, la credine, viene ritenuto indirettamente responsabile della morte di Dimebag. Lui aveva confidato, per esempio, confidato si fa per dire, perché se lo dice a una rivista, l'aveva dichiarato, la rivista era Metal Hammer, aveva detto Darrell merita di essere picchiato violentemente, l'aveva detto poche settimane prima dell'omicidio. Il funerale è in perfetto stile Pantera, piccola folla di metal, di gente del metal, bara griffata Kiss e tra i presenti l'idolo di una vita, Eddie Van Halen, che si presenta per portare il suo omaggio e un attimo prima della sepoltura suona un assolo solo per Dimebag davanti alla sua bara. Van Halen, l'ultima parola che Vinnie Paul e Dimebag si sono scambiati prima dell'inizio del concerto e quindi della morte di Dimebag, l'eroe di un ragazzo del Texas che è diventato la sua fonte di ispirazione. I due si sono incontrati solo una volta, poche settimane prima della sparatoria a Las Vegas, e in quell'occasione Dimebag aveva offerto $30,000 per la chitarra di Eddie. Durante il volo di ritorno si era girato verso il fratello e gli aveva detto che dopo quell'incontro per lui quell'aereo avrebbe anche potuto schiantarsi e lui sarebbe stato felice. Beh, c'era andato vicino. Come ultimo saluto, Van Halen regala a Dimebag la sua chitarra. Dimebag era un originale, merita un originale, così dice Van Halen, e oggi Dimebag riposa in pace imbracciando la chitarra di Eddie Van Halen. Tra i partecipanti al funerale però c'è un silenzio assordante, perché risuona un'assenza, quella di Phil Anselmo. La famiglia gli ha negato la possibilità di partecipare alla funzione di salutare Dimebag per l'ultima volta. He was not just some guitar player. Non era solo un chitarrista. Voglio solo dire, benedetta sia la sua famiglia e tutti i suoi amici più stretti. E non ho mai avuto l'occasione di dirgli addio nel modo giusto. E questo mi uccide. Mi dispiace così tanto. Avrei voluto andare al funerale, ma dovevo rispettare i desideri della famiglia che non mi voleva lì. Credo che quello fosse il mio posto, ma capisco completamente. Sono dispiaciuto per i membri della sua band. I'm so sorry to his band members. E queste erano le scuse commosse di Phil Anselmo, ovviamente soffocato dai sensi di colpa. Tanti fan negli anni successivi hanno sperato in una reunion dei Pantera con Zakk Wylde alla chitarra, un altro chitarrero, ha suonato con Ozzy Osbourne, insomma è un fuori classe, però non è avvenuto questo. Vinnie Paul non è riuscito mai a perdonare Phil dopo la morte del fratello, lo stesso Vinnie peraltro un anno fa è morto per un infarto. I Pantera non ci saranno mai più, Dimebag continuerà ovviamente a suonare come tutti i cantanti più amati, a suonare negli stereo, ahimè anche nei lettori MP3, nelle chiavette di giovani metallari che stanno sognando di diventare dei grandi chitarristi. Lascia una grandissima eredità e una riflessione sui rapporti a volte pericolosamente tormentati tra il fan e l'idolo. Se volete mandarci dei commenti sapete dove trovarmi. Ciao, a lunedì. Il Falco e il Gabbiano, un programma di Enrico Ruggeri, testo di Simona Capodanno, con la collaborazione degli studenti del Master in Radio, TV e Web Content della 24 Ore Business School, Claudio Balboni, Danilo Di Trani, Maria Giulia Sofi, Vittoria Zaniboni. In questo momento, migliaia di aziende e pubbliche amministrazioni erogano i loro servizi attraverso Aruba Cloud, perché costruiamo soluzioni sicure e flessibili, proprio qui, in Italia.